bentornate, bentornati a una nuova puntata di Coccoli al Silicio. Ora siamo qua nella nostra redazione in Siberia, tristi e raminghi. Aspettiamo l'arrivo di una grossa nevicata, pare da nord, e quindi così la puntata sarà un po' tutta dimessa, triste e raminga. No, non è vero. La prima cosa che vi volevo raccontare è in realtà è praticamente un, come si dice, è un auto cameo, cioè mi faccio pubblicità da solo, nel senso che all'E-Club di Firenze, che si trova il mercoledì sera alla Polveriera, partirà. In quella polveriera un breve ciclo di quattro incontri dal titolo La ricreazione al silicio, e si capisce che lo faccio io perché io faccio coccoli al silicio. Forte, no? E comunque questo ciclo di appuntamenti vorrebbe essere un inizio di warm-up e di riscaldamento per Hack Meeting 2019, che si terrà presso il Next Emerson a Firenze ai primi di giugno. Le date certe saranno diffuse a breve. Siamo in attesa di una conferma dalla lista di gestione dell'Hack Meeting o di un ipotetico silenzio assenso. Cioè nessuno dice niente, quindi va bene e rimangono quelle prefissate, e quindi dalla prossima settimana probabilmente vi annunceremo le date certe. La ricreazione al silicio, si diceva, che cos'è? Vi leggo la descrizione che ho tosto, cioè ho scritto io di mio pugno proprio da solo. Sì. Appuntamento mensile all'E-Club in Polveriera per capire e approfondire le tecnologie smontandole e giocando. Ogni volta verranno proposti dei mini laboratori guidati di cose a carose, usando risorse disponibili online, Capture the Flag, Insecure VM, robe simili, ovvero ambienti con bug o vulnerabilità create apposta per capire come funziona questo buffo universo. Mi sa che ho sbagliato pure a scrivere, ho messo delle parentesi strane, e quindi vabbè, comunque se capita tanto in radio non le vedete le parentesi, anche se sono messe strane non ve ne accorgete. E quindi niente, mercoledì 23 gennaio alle ore 19, precisamente dalle 19 alle 21, di più non ce la faccio perché già esplodo con il mal di testa ora che, cioè, ho un po' di sinusite andante, così stando sempre avanti e indietro con la Siberia, su jet, i jet lag, queste cose qua, non fatico. D'altra parte, così, se Radio Wombat chiama, io non posso che accorrere. E mercoledì, appunto, 23 gennaio, ore 19, la prima data. Poi mercoledì 13 febbraio, sempre ore 19. Poi mercoledì 13 marzo, sempre ore 19. E poi mercoledì 17 aprile, sempre ore 19. Ho fatto un calendario perché una sola volta al mese, così almeno me le sono fissate tutte subito. E tant'è. Quindi, se vi piace questa roba, se avete capito che cos'è, se non avete capito, venite lo stesso, magari vi piace, non lo so. Questo il prossimo mercoledì, il 23 gennaio, in quel della Polveriera. E ora musica. Rieccoci. La prossime notizie saranno un po' tutte, sarà una puntata abbastanza breve questa di questa sera in verità, comunque saranno un po' tutte a parlare di alcune tecniche buffe che i malware utilizzano per nascondersi, diffondersi e via e via. E questo perché? Perché sono uscite in questa settimana un sacco di queste cose, di notizie a tema, e quindi mi è venuto spontaneo mettere assieme quelle che mi hanno incuriosito di più e raccontarvele. Allora, la prima riguarda un malware di questo gruppo che si chiama Dark Idrus, che è uno di quelli diciamo considerati una Advanced Persistent Threat, cioè uno di quei gruppi che hanno delle strutture stabili, che negli anni portano attacchi, hanno tante macchine e hanno messo su in piedi una struttura stabile su internet che dura negli anni, e ogni tanto aggiornano i malware, portano attacchi di vario tipo. E ecco, questo gruppo ha rilasciato attualmente una nuova, diciamo, un nuovo Trojan che chiamano Rouge Robin, mi sembra di ricordare, che banalmente anziché diffondersi attraverso un qualche zero day eccetera, utilizza delle macro di un file Excel. Quindi niente di particolarmente stratosferico, però era interessante era raccontare questa cosa qua, ma ci sono dei particolari che sono ancora più sugosi. Questo Rouge Robin utilizza anche alcune tecniche per capire se sta girando dentro una sandbox o dentro un ambiente virtuale, essenzialmente perché, se è così, non è interessato a mostrarsi, perché potrebbe essere un ambiente comunque o troppo limitato per farci cose interessanti, oppure un ambiente costruito apposta per individuare il malware, tipo quelli che al volo ereggono gli antivirus, quelli che fanno le robe euristiche, cioè quelli che studiano i comportamenti degli eseguibili prima, oppure potrebbe essere proprio un ricercatore che ti sta tentando di capire che fai. Oltre a questo, una nuova variante di questo Rouge Robin utilizza per comunicare, quindi per prendere informazioni, per creare il cosiddetto canale di command and control, delle tecniche di DNS tunneling, cioè nasconde i dati dentro delle query DNS fake. Ma e questo era il titolo della notizia, un'alternativa a questa roba qui è attraverso un documento appoggiato su Google Drive, cioè lui crea un documento e poi continuamente va a vedere se quel documento è stato modificato. Se è stato modificato, si legge i propri comandi, le cose da fare da quel documento. Questo fa parte in realtà di una sorta di trend, penso che, siccome la maggior parte degli antivirus, dei sistemi di DDoS, queste cose qua, controllano e blacklistano gli indirizzi da cui provengono gli attacchi, sempre più spesso i malware si nascondono all'interno di strutture che sono date come sane. Cioè, Google Drive non può essere blacklistato, altrimenti ti bruci la produttività della tua azienda, probabilmente, no? E quindi ecco che il modulo la variante di Rouge Robin, il plugin per l'utilizzo di Google Drive. Ho anche altre sugose notizie, una ve la do subito perché è abbastanza collegata a questa. Ho parlato all'inizio di tecniche che questo Rouge Robin utilizzava per comprendere se stava all'interno di un ambiente virtuale, all'interno di una sandbox, eccetera. Ebbene, c'è un nuovo virus, un nuovo malware per Android, che tenta di comprendere se si trova in un ambiente dove ha senso proliferare, oppure No, nel particolare se si trova veramente su un telefonino oppure si trova all'interno di un simulatore di Android, dalla lettura dei sensori di movimento. Perché? Perché un sensore di movimento, se io il telefono ce l'ho in mano, lo porto all'orecchio per telefonare, lo sposto, rileverà delle cose. I simulatori di Android non hanno i sensori di movimento e quindi se io rilevo zero movimento attorno a me, significa che non sono su un telefono e quindi non devo fare niente. E anche questa è appunto una tecnica che diciamo che questi virus utilizzano. In particolare, questo prende cioè i propri canali di command and control o da Twitter o da Telegram, ma decide se deve andare a cercarli solo nel momento in cui è sicuro di essere su un telefonino. E quando diciamo è sicuro di esserlo e capisce che è il momento, installa un Trojan che si chiama Anubis, che è uno di quelli fatti per rubarvi le credenziali bancarie, cioè uno di quei Trojan che nel momento in cui voi usate una app che lui riconosce come una app finanziaria di cui è in grado di simulare il comportamento, vi guida sostanzialmente in una versione fake per rubarvi le credenziali e poi fare insomma quello che deve fare. E tutti questi si diffondono, è da notare, attraverso delle app regolarmente registrate nel Play Store di Google, cioè app malevole, e questo dice qualcosa probabilmente sul senso dei Play Store di Google. E intendevo dire, parlando appunto dell'App Store di Google, che appunto esiste solo delle ragioni di monopolio per cui Google vuole mantenere un App Store. Cioè, quando vi dicono, ah, scarica solo le app dall'App Store di Google. No, forse se vi scaricate solo le più grosse, capito? Però cioè, se voi pescate a caso delle app perché vi piaceva il nome o perché gli hanno messo le 5 stellette fake, 50.000 persone tutte finte e non avete nessuna garanzia rispetto a prendere, che ne so, gli eseguibili da, mi viene in mente, che ne so, F-Droid, che è uno store di free software. Ecco, cioè non esiste una vera sicurezza nel scegliere di installare le app solo dal Play Store. È come dire compro solo CD originali e che chi se ne frega. Cioè non è una cosa che è legata alla sicurezza diciamo, dello strumento in sé. È legata, boh, se vuoi, a un problema di copyright, che però, boh, chi se ne frega. Nel pigliare le app solo dal Play Store, secondo me, non si può parlare di diciamo, di un comportamento dal punto di vista della sicurezza meglio che non prendendole a caso. Cioè, se sai cosa stai facendo, pigliale da dove ti pare. Il problema è se sai cosa stai facendo. Se tanto non sai cosa stai facendo, le pigli dal Play Store e ti ritrovi comunque i malware. E tant'è. Un altro pochino di musica e poi prossime notiziole sempre di questo tipo. È un'altra tecnica che i malware, questa volta javascriptosi, utilizzano per rubarvi le credenziali delle vostre carte di credito quando fate dei pagamenti su siti non troppo sicuri da questo punto di vista, è questa che ora vi racconto. E questi signori che sono specializzati in questa roba si chiamano tipo MageCart, mi sembra, questo gruppo di specialisti in questo tipo di truffe legate a rubare i numeri di carte di credito, di vari account, di robe per pagare, PayPal, queste cose qui, eccetera. Nel momento in cui andate a fare il checkout sul carrellino della spesa che avete fatto sul vostro sito di commercio elettronico, ecco, delle personaggi che sono specializzati in questo campo si sono inventati questa idea, cioè di bucare il sito, che magari non ci riescono, proprio quello del commercio elettronico, ma di arrivarci attraverso gli ads che appaiono nella pagina, che magari sono riusciti a compromettere, invece il sito no. Però siccome tanto poi il sito se li tira dentro, alla fine quel codice viene eseguito nel browser dell'utente sfortunato, e nel momento in cui viene eseguito gli ruba sostanzialmente le credenziali per pagare nel momento in cui va a fare il checkout del carrello. Quindi è interessante comunque come approccio, dire boh, se non riesco a bucare il sito che mi interessa, che è quello di commercio elettronico, guardo che ads c'ha, magari riesco a bucare uno di quegli ads. A me mi è sembrato creativo come approccio e ci tenevo a riportarlo, ecco. Ultima notizia della serata, poi chiudo questa veloce puntata, però spero di news interessanti. E una cosa che è accaduta in America che a me mi ha fatto un po' sorridere, non è neppure così inconsueta. Un server, una macchina di storage sostanzialmente, in cui venivano appoggiati dati perché qualcuno li potesse poi prendere da un'altra parte con pare un banale R-Sync, è stata dimenticata per circa una settimana. Il problema è che per una settimana ha esposto a tutti 3 terabyte, cioè a chi sapeva che stavano lì, di materiali relativi a indagini dell'FBI e a varie altre investigazioni. E questa cosa è accaduta in un dipartimento chiamato ODS, che significa Oklahoma Department of Securities, e pare che appunto se lo siano bellamente dimenticato lì, e ci fosse materiale di una decina d'anni, perché andava da 1986 al 2016, e che sì, era stato messo lì perché qualcuno lo copiasse attraverso un R-Sync, ma purtroppo così non è stato solo, non lo sappiamo, cioè nel senso che se quella settimana lì poi qualcun altro è acceduto, ora il materiale è pubblico, tant'è. E quindi niente, con questa notizia di link involontario che a noi alla fine ci frega il giusto, ma loro invece ci saranno rimasti male, credo. Chiudo anche la puntata, vi do appuntamento alla prossima settimana. La prossima settimana non so bene che farò, magari vi relaziono un po' anche di che è successo in quel dell'Eclab e dello stato di dell'Eclab di Firenze, IFDU, e dello stato dell'organizzazione di Hack Meeting, visto che tendenzialmente sarà una delle principali attività dell'Eclab da qui a giugno-luglio, no, giugno, perché a luglio non ci si va manco morti e qui già si schianta all'inizio di giugno. E quindi vi saluto a tutte e a tutti, buona serata, un pochino di musica e poi la consueta bobina di Radio Wombat.